Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggervi un versetto dalla prima epistola di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, uno dei dodici. Precisamente il versetto 1 del capitolo 5 della sua prima epistola. Così è scritto: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Dunque, noi che crediamo che Gesù di Nazaret è il Cristo o Messia, cioè l'unto che Dio aveva promesso ab antico per mezzo dei suoi profeti di mandare, il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dico, chiunque crede che Gesù è il Cristo, e noi appunto siamo tra coloro che credono che Gesù è il Cristo, è nato da Dio. Quindi, essendo nato da Dio, è un figliolo di Dio. Infatti noi siamo figlioli di Dio. Figlioli di Dio perché il Dio ci ha rigenerati mediante la parola della buona novella, la buona novella che Gesù è il Cristo. Ci ha rigenerati e ha fatto di noi dei suoi figlioli. Noi un tempo eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ma il Dio si è compiaciuto di vivificarci e quindi di rigenerarci. Quindi cosa significa questo? Che noi non siamo sempre stati figlioli di Dio, ma c'è stato un tempo in cui non eravamo figlioli di Dio, eravamo figlioli di ira per natura come gli altri. Figlioli di ira perché eravamo schiavi del peccato. Il peccato ci signoreggiava. E il peccato, che è la violazione della legge, ci ripagava con la morte. Infatti il salario del peccato è la morte. Eravamo sì, morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Non c'era vita in noi, eravamo senza vita. Ma il Dio, per mezzo appunto di Cristo Gesù, ci ha vivificati, ci ha rigenerati e ci ha fatto diventare quindi nuove creature. Noi siamo delle nuove creature. Tutto questo per mezzo dell'opera potente di Dio compiuta in noi, per mezzo del suo Evangelo. Considerate dunque quanto sia potente l'Evangelo di Dio che noi annunziamo. Ora, eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché eravamo signoreggiati dal peccato e quindi eravamo schiavi del peccato. Nel momento in cui abbiamo creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo, non siamo dunque stati solamente rigenerati, e quindi siamo nati da Dio, ma siamo anche stati liberati dai nostri peccati, affrancati dal peccato. E quindi ora siamo liberi. Siamo liberi dal peccato, non liberi di peccare. Non esiste la libertà di peccare, non esiste la libertà di fare quello che si vuole. Sotto la grazia, e noi siamo sotto la grazia, esiste esiste il comandamento di non peccare, non quello di peccare. Vi dico questo perché oramai è risaputo che molti hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza e incitano in una maniera o nell'altra i credenti a peccare. Tanto siamo sotto la grazia, tanto Dio è misericordioso, e usano vari sofismi appunto per incoraggiare i credenti a peccare. Badate dunque a voi stessi, fratelli del Signore, per non cadere vittima di questi impostori, di questi scellerati. Perché chi è nato da Dio non è più sotto il peccato, in quanto non è più schiavo del peccato. Voglio leggervi alcune parole che sono presenti nell'epistola di Paolo ai santi di Roma. L'apostolo Paolo dice quanto segue al capitolo 6, versetto 17: ma sia ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Dunque, chi è nato da Dio non è più un servo del peccato, il peccato non lo signoreggia più perché è stato affrancato dal peccato, ma è servo della giustizia, è servo di Dio. Adesso serve il Dio. Infatti noi serviamo la giustizia, serviamo il Dio. Ora, voglio farvi notare che subito dopo aver detto chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, l'Apostolo Giovanni dice chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Allora, noi che siamo nati da Dio sappiamo di essere stati generati da Dio mediante la parola di verità, cioè mediante la parola della buona novella. Quindi noi amiamo chi ci ha generati, perché è il nostro Padre Celeste. Noi amiamo Dio Padre, colui che ci ha generato, colui qui viene chiamato colui che ha generato. Allora, dato che amiamo colui che ha generato, noi amiamo anche chi è stato da lui generato. In altre parole, amiamo i figlioli di Dio, che sono nostri fratelli. Chi è che viene chiamato da noi fratello? Chi è stato generato da Dio, chi è un figliolo di Dio. Non è che possiamo chiamare noi fratello un figliolo del diavolo. I figli del diavolo non sono nostri, fratelli, perché non sono figli di Dio, non sono nati da Dio, non sono stati rigenerati da Dio. I figlioli del diavolo sono morti nei loro falli, nei loro peccati. Allora bisogna stare attenti a chi si rivolge l'appellativo fratello, perché in mezzo alla Chiesa si sono insinuati dei figli del diavolo. Esistevano allora, esistono anche oggi. E si riconoscono. Si riconoscono perché Giovanni ci ha detto queste parole. Attenzione a quello che dice Giovanni. Dice: da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Vedete dunque, c'è la maniera per riconoscere i figlioli del diavolo. E non ci si sbaglia, non ci si può sbagliare. Quando si segue ciò che dice la Sacra Scrittura, non ci si smarrisce, non si rimane confusi, non ci si può sbagliare, proprio è cosa certa. Allora, chi non opera la giustizia, e quindi perché odia la giustizia, non è da Dio. Da chi è? È dal diavolo. Badate bene che chiunque non opera la giustizia è chiunque non serve la giustizia, e chiunque non serve la giustizia è chi appunto è ancora schiavo del peccato. Dunque, chiunque non opera la giustizia non è da Dio, così pure chi non ama il suo fratello. Quindi, chi odia i fratelli, figlioli di Dio, è un figliolo del diavolo. E quindi è nella morte chi odia i figlioli di Dio. Non solo, chi odia i figlioli di Dio è omicida. E come dice Giovanni, voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Ma infatti gli omicidi non hanno la vita eterna in loro, non avendo il figliolo in loro, perché il figliolo è la vita eterna. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Quindi, chi odia il suo fratello è omicida. Ora, gli omicidi sono dal diavolo. Vi ricordate Caino? Caino era da Dio o dal diavolo? La scrittura dice che era dal maligno. Infatti uccise suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Allora, le opere malvagie sono manifeste, si vedono, come anche le opere giuste. Insomma, una persona malvagia si riconosce, come anche si riconosce un giusto. Si riconosce naturalmente dalle opere, infatti il malvagio ha opere malvagie, il giusto ha opere giuste, perché il giusto pratica la giustizia, ama la giustizia, ma il malvagio non ama la giustizia, infatti non opera la giustizia, le sue opere sono malvagie, come lo erano quelle di Caino, e quindi è evidente che noi possiamo, anzi dobbiamo giudicare coloro che non operano la giustizia e che non amano i fratelli, dobbiamo giudicare, li dobbiamo considerare figli del diavolo. Lo so che oggi si sente parlare poco dei figli del diavolo, anche perché molti non credono che esista il diavolo e men che meno credono che esistano i figlioli del diavolo, ma la scrittura ne parla. Anche perché noi ne abbiamo incontrati di figli del diavolo, non è che non li abbiamo incontrati. E badate bene che i figlioli del diavolo, per insinuarsi in mezzo ai figlioli di Dio, si travestono da figlioli di Dio. Questo è superfluo che ve lo dica, è un po' come Satana. Satana, anche Satana si traveste da angelo di luce. Ma perché, vi siete mai chiesti perché Satana, che è l'avversario, si traveste da angelo di luce? Per, diciamo, insinuarsi in mezzo alla Chiesa che è la luce del mondo. O meglio, per insinuarsi tra coloro che sono figlioli di luce. E allora ha bisogno di travestirsi da angelo di luce, vedete? Però chiaramente è evidente che noi riusciamo a smascherare la sua presenza, perché il diavolo è bugiardo, è padre della menzogna, è omicida, pecca dal principio. Insomma, c'è la maniera per riconoscere il diavolo. Molti vivono come se il diavolo non esistesse. Certo, il diavolo fa di tutto per far credere alle persone che lui non esiste. Certo, voglio dire, nel momento in cui riesce a far credere questa cosa, insomma, riesce ad avere un successo notevole, perché uno degli obiettivi del diavolo è proprio quello di fare credere che lui non esiste, e difatti ci è riuscito a far credere a tanti, anche evangelici, che il diavolo non esiste, è semplicemente un simbolo, simboleggia il male che c'è nel mondo. Ma non è assolutamente così, il diavolo è un essere spirituale, malvagio, di cui la scrittura parla veramente abbondantemente, e che è il nostro avversario. che va attorno a noi a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Per quello che ci dobbiamo sottomettere a Dio e resistere al diavolo, ed egli fuggirà da noi. Quindi, in mezzo alla Chiesa si sono, diciamo, infiltrati dei figlioli del diavolo, che come il loro padre e padrone si travestono da figlioli di Dio, cioè da figlioli di luce. Ma attenzione, è un travestimento, e come tutti i travestimenti poi alla fine praticamente vengono fuori, no? Non è così? Cioè, voglio dire, scoprire uno che si è travestito, arriva il momento in cui tu scopri che uno si è travestito. È comunque una grande scoperta, è una grande cosa veramente, è una grande vittoria che Dio concede alla sua Chiesa, quello di scoprire gli infiltrati. D'altronde gli infiltrati ci sono anche nelle nazioni, no? Ci sono negli stati, no? Le cosiddette spie, no? Che naturalmente per non farsi scoprire si devono travestire anche loro, no? Da cittadini modelli, da cittadini patrioti e così via, ma sono delle spie. Dopo, quando vengono scoperti, vengono additati appunto come spie. Ecco, i figlioli del diavolo che si sono appunto insinuati in mezzo alla Chiesa, diciamo, sono come delle spie, e diciamo, i loro intenti sono malvagi, i loro obiettivi sono malvagi, macchinano del continuo contro i figlioli di Dio, macchinano nell'ombra, poi però arriva il giorno in cui Dio li smaschera, no? Li smaschera, li fa scoprire, e quindi in quel momento vengono fuori, veramente, viene fuori il loro vero volto, chi sono veramente. Dunque, noi siamo figlioli di Dio, e come dice Giovanni, vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Allora vedete, fratelli del Signore, perché il mondo non ci riconosce, non ci conosce, ma perché non ha conosciuto Dio. Il mondo giace tutto quanto nel maligno, cioè nel diavolo. Ecco perché non ci conosce, però noi siamo figlioli di Dio, siamo conosciuti da Dio. Allora, vi stavo dicendo appunto di quelle parole, vi stavo commentando le parole di Giovanni, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato a lui generato. Appunto, vi stavo dicendo che i figlioli del diavolo non amano coloro che sono stati da Dio generati, ma d'altronde il diavolo non ama quelli che sono stati generati da Dio, e quindi anche i suoi figlioli, anche i servi del diavolo, non possono amare quelli che sono stati generati da Dio. Guardate che questi concetti sono fondamentali, fratelli nel Signore, sono fondamentali, perché noi come Chiesa di Dio siamo attaccati dal diavolo. Ma il diavolo com'è che ci attacca sulla terra? Com'è che ci attacca? Ci attacca anche tramite i suoi figlioli, tramite i suoi servi. Capite? E ricordatevi questo, una delle caratteristiche dei figli del diavolo e dei servi del diavolo è il fatto che sono bugiardi, e non può essere altrimenti, perché il loro padre è bugiardo e padre della menzogna. Infatti, costoro prendono piacere nella menzogna, amano e praticano la menzogna, ma lo ripeto, è del tutto normale, perché sono figli del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. È ovvio questo, non ci dobbiamo meravigliare. Dunque, quando vi trovate davanti uno che si dice cristiano, ma è bugiardo, ama e pratica la menzogna, un bugiardo, nel mondo li chiamano compulsivo, un bugiardo che non può fare a meno di mentire, un bugiardo che deve mentire, che un bugiardo che è signoreggiato dalla menzogna. Ebbene, sappiate che vi trovate davanti ad un figlio del diavolo, anche perché la lingua bugiardia odia chi ha ferito, quindi i bugiardi che lanciano bugie, che si inventano false accuse contro i figlioli di Dio, è evidente che lo fanno perché li odiano, se no per quale ragione uno dovrebbe dire delle menzogne, deve lanciare false accuse contro un figliolo di Dio? Perché lo odia, e allora quell'odio sta a testimoniare in maniera evidente che quell'uomo, quel bugiardo appunto, è un figlio del diavolo. Allora, quindi l'amore contraddistingue, l'amore verso Dio e anche verso i figlioli di Dio, contraddistingue chi è nato da Dio. Infatti, sempre nella prima epistola di Giovanni c'è scritto, ascoltate, capitolo 4, 1 Giovanni 4, versetto 7, diletti amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, vedete? Notate cosa c'è scritto, che chiunque ama è nato da Dio, quindi un figliolo di Dio si riconosce dal suo amore, dall'amore che ha verso Dio e verso i figlioli di Dio. Se uno non ama, non è nato da Dio. E quanti oggi non sono nati da Dio? Molti non sanno nemmeno cosa significa essere nati da Dio. La nuova nascita, molti non sanno neppure cosa sia in mezzo alle chiese evangeliche, ma senza la nuova nascita non si può entrare nel regno di Dio. Ecco perché è di fondamentale importanza spiegare da parte di coloro che sono preposti nel Signore che cos'è la nuova nascita. E quando avviene la nuova nascita? La nuova nascita avviene quando l'uomo si ravvede e crede nella buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco quando avviene la nuova nascita, ecco quando l'uomo nasce da Dio. Quindi l'amore, l'amore verso Dio e verso anche i figlioli di Dio. Ora, altra caratteristica appunto di coloro che sono nati da Dio e che non sono appunto servi del peccato, l'ho già detto, ma comunque diciamo voglio un po' spiegarvi meglio questo concetto biblico. Allora, leggiamo cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 3 di Primo Giovanni. Allora ascoltate, capitolo 3, da versetto 7. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Ora, notate anche qui la differenza tra chi, come la scrittura dice, non commette peccato e chi commette il peccato. Allora, chi non commette il peccato è nato da Dio, chi commette il peccato è dal diavolo. Che cosa significa? Che chi è schiavo del peccato è dal diavolo. Perché? Perché è dal diavolo chi commette il peccato che vi ricorda la violazione della legge? Perché il diavolo pecca dal principio. Il diavolo dall'inizio trasgredisce naturalmente i comandamenti di Dio e li fa trasgredire. Il diavolo si oppone oppone alla volontà di Dio. Il diavolo lotta contro Dio. È il diavolo. È il calunniatore. Diavolo significa calunniatore. Nonché l'avversario, no? Perché Satana significa avversario. Allora, notate la differenza tra chi è nato da Dio, non commette peccato, non è schiavo del peccato, perché è affrancato dal peccato. Mentre chi è dal diavolo commette il peccato, perché il diavolo pecca dal principio. Vedete come la Sacra Scrittura è estremamente chiara. Naturalmente, però, c'è sempre qualcuno che offusca ciò che è chiaro. Ha tutto l'interesse a farlo, a creare confusione. E chi è che crea confusione? Dio non è un Dio di confusione, è scritto? Ma allora, questa confusione, chi la crea, questa confusione enorme, spaventosa, che c'è nelle chiese, chi è che la crea? Chi è l'originatore di questa confusione? Il diavolo. D'altronde nelle denominazioni evangeliche ci sono tanti che sono dal diavolo. E quindi, essendo dal diavolo, non possono che creare confusione. Quando li sentite parlare, inorridite, dite, ma che confusione, ma che... Quante volte vi è capitato? Ma che confusione, ma che confusione! È l'opera del diavolo. Infatti, quando poi, queste menzogne del diavolo vengono smascherate e confutate, poi che cosa succede? Succede che la persona dice, adesso ci vedo chiaro, adesso è chiaro, via la confusione, e la confusione naturalmente poi sparisce. Quindi vedete, fratelli del Signore, questo è un concetto, lo ribadisco, molto importante. Allora, chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Quindi è evidente che, come vi ho fatto l'esempio del bugiardo, ma vi potrei fare l'esempio del fornicatore, vi potrei fare l'esempio dell'omosessuale, dell'idolatra, dell'effeminato, dell'ubriacone, dello stregone, dell'omicida, insomma. Chi è schiavo del peccato è dal diavolo. Queste parole di Giovanni sono sconosciute quasi a tutti. Perché? Ma perché non vengono predicate? Perché oggi sono molti quelli che sono dal diavolo nelle denominazioni che vanno al culto domenica dopo domenica e che danno anche magari la decima. La decima, perché il loro amato pastore gli ha detto che devono darla. Gli ha detto che devono darla. C'è chi addirittura definisce la decima come l'affitto che il credente deve pagare a Dio per la terra. Avete capito? Quindi praticamente il loro messaggio è paga la decima, altrimenti Dio ti sfratta dalla terra. Ma comunque non ti preoccupare, ti dicono che in cielo ci vai lo stesso. Ma come? Come può andare uno che non paga l'affitto a Dio per la terra andare in cielo? Ma lo sapete che chi non paga l'affitto è un ladro? Il Signore quando biasimava coloro che non davano la decima, non è che gli diceva vabbè, ma non vi preoccupate, dai, fa niente. No, il Signore, quando riprese quelli che non pagavano la decima, fu estremamente duro. Questi sono molto, molto blandi. Come mai sono diventati così blandi costoro? Dice, l'uomo deve gli derubare Dio, eppure voi mi derubate, ma voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte, quindi... Cioè, chi non paga la decima è un ladro. Chiaramente, ovviamente, queste mie parole servono a smascherare la follia di costoro, no? che dicono, vabbè, ma Dio anche se ti sfratta dalla terra poi ti porta in cielo. Ma come? Se è un ladro, come fa a portarmi in cielo? Come fa a portare in cielo i ladri il Signore? E questa è la dimostrazione che questi pastori sono degli impostori. Perché vedete come si smascherano da loro stessi? Loro dicendo che chi non paga la decima, attenzione, l'affitto, vabbè, questa è una definizione, diciamo, tutta loro, che non è nella Bibbia, quella dell'affitto che si deve pagare per la terra. Ma voglio dire, vedete come si smascherano da solo? Ma se uno, cioè, se uno non paga la decima, agli occhi di Dio è un ladro. Cioè, i ladri non erediteranno il regno di Dio, invece per costoro i ladri ereditano il regno di Dio. Ma ecco perché poi, alla fine, che cosa si scopre? Che la ruberia in mezzo a queste chiese è molto diffusa. Capite? Allora, la decima è un comandamento sotto la legge, diciamo, un comandamento, diciamo, che riguardava gli israeliti, che dovevano appunto osservare, era un comandamento che Dio aveva dato per il sostegno dei leviti. Ora, la decima doveva essere data ai leviti. Allora, sotto la grazia, noi non siamo chiamati a, non siamo obbligati a pagare la decima, siamo obbligati a dare, a dare, sì, siamo obbligati, c'è il comandamento di dare, datevi sarà dato, ma non c'è il comandamento, non vi, sotto la grazia non vi c'è il comandamento di dare la decima, però costoro, dato che amano il denaro, allora esortano le chiese a dare la decima, però si smascherano da loro stessi, perché nel momento in cui dicono, vabbè, ma anche se non pagate l'affitto a Dio per la terra, vabbè, dopo il Signore vi salva lo stesso nel suo regno, ma non può essere così. Perché chi non paga la decima è un ladro, ma comunque questa è una parentesi che ho aperto un po' per farvi capire la follia che aleggia veramente su tanti o in tanti che si definiscono pastori e predicatori. Allora, chi commette il peccato è dal diavolo. Allora, vi stavo dicendo, queste parole non vengono predicate, perché quelli che sono dal diavolo sono veramente tanti nelle denominazioni, ma veramente tanti, fratelli nel Signore, perché i fatti lo dimostrano, i fatti, le parole di costoro, come anche i loro fatti, dimostrano che costoro sono dal diavolo. Non è un giudizio ingiusto, Non è un giudizio dato perché noi ci sentiamo superiori o perfetti, no, nella maniera più assoluta, è un giudizio giusto, perché è basato su quello che dice la Sacra Scrittura. È evidente dunque che chi serve il peccato, che chi serve il peccato è dal diavolo. E invece oggi coloro che servono il peccato vengono definiti fratelli. Per esempio, come si fa a definire un uomo che si prostra? Cioè, un uomo dedito all'idolatria, che si prostra davanti alle statue, alle immagini rappresentanti Maria, che prega, invoca Maria. Cioè, mi volete dire come si fa a definire un tale uomo nato da Dio? È impossibile, perché quello è un idolatra. Chi commette il peccato di idolatria è dal diavolo. Eh sì, però questo non si può dire. Secondo costoro, ma perché siamo tutti figlioli di Dio, fratelli? No, non siamo tutti figlioli di Dio, ci sono i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. E come si riconoscono i figlioli di Dio, si riconoscono anche i figlioli del diavolo. D'altronde il diavolo esiste, non è che l'ho creato io il diavolo. Il diavolo esiste, noi dobbiamo prendere, diciamo, prendere atto che il diavolo esiste, la Bibbia ne parla, ed esistono anche i figli del diavolo, coloro che sono dal diavolo. Vi ricordo che Caino era dal diavolo, Caino era dal maligno, infatti uccise il suo fratello. Quindi, allora, chi commette il peccato è dal diavolo. Allora, coloro che sono servi del peccato sono dal diavolo, ma perché? Perché il peccato, fratelli nel Signore, è la violazione della legge. Di quale legge? Della legge che ha dato Dio. Allora, la Bibbia dice che il peccato è la violazione della legge. Allora, chi è che ha interesse? Chi è che ha interesse a che l'uomo pecchi, quindi che violi la legge di Dio? Chi è che ha questo desiderio? Il maligno. L'avversario. Allora è evidente che come il diavolo pecca dal principio, fa sì che anche coloro che sono appunto suoi figlioli pecchino. E infatti poi li vedete, i figlioli del diavolo, peccare. Non possono fare a meno di peccare, è più forte di loro. Voi vi domandate, ma come va quello lì? Ma non si rende conto? Quello è un figlio del diavolo, è schiavo del peccato, è schiavo, capite? Uno schiavo non è libero, non è un uomo libero. Io all'inizio della mia conversione mi facevo questa domanda, ma come fanno questi qua, che si definiscono evangelici, a servire il peccato? Ma come fanno? Come fanno? Come fanno a essere schiavi del peccato? Poi ho capito. Non erano nati da Dio. Costoro erano dal diavolo. E ecco perché io mi domandavo sempre, ma come mai questi qua si definiscono evangelici, ma io non ho alcuna comunione con loro? Quando li incontravo, quando li vedevo, quando li sentivo, sentivo sempre un turbamento, un profondo turbamento dentro di me. E mi domandavo, ma da dove viene questo turbamento? Perché sono turbato? Oppure questi si presentano come fratelli. Ma quali fratelli? Ma quali fratelli? Guardate che come ci sono le pecore del Signore, ci sono anche i serpenti. Serpenti. Serpenti. Serpenti, razza di vipere, vi ricordate Gesù a chi rivolse queste parole? Non ai suoi discepoli. Non ai suoi discepoli, ma a coloro che erano progenie del diavolo. Infatti la progenie del diavolo è paragonata appunto ai serpenti. E ci sono molti serpenti che si aggirano nelle chiese. Molti serpenti! E quindi, diceva bene l'Apostolo Paolo, in pericolo fra falsi fratelli. Guardate che i falsi fratelli sono una realtà, Non vi dimenticate mai della loro presenza, perché sono un costante pericolo. Vegliate, pregate, fratelli del Signore, perché i falsi fratelli chiaramente vi spiano, cercano di spiarvi per ridurvi in schiavitù. Sono strani però, vi confesso che sono strani, sono strani. Sentite lo Spirito di Dio in voi che vi avverte, che comunque vi mette in guardia da loro, anche se magari ancora non sono stati smascherati, però io vi posso assicurare che sentite dentro di voi per lo Spirito qualcosa, qualcosa, è appunto l'avvertimento che viene da Dio. Poi dopo capirete, quando appunto i serpenti si manifesteranno, capirete che cosa erano appunto quei turbamenti, quei pensieri che vi venivano appunto, diciamo, di tanto in tanto. Capirete che erano degli avvertimenti da parte di Dio. E quindi, vedete, fratelli del Signore, noi che siamo nati da Dio, non siamo schiavi del peccato. E guardate, questa è una cosa meravigliosa, perché quando io penso veramente al tempo passato al servizio del peccato, mi rendo conto veramente che se il Signore non mi avesse liberato, affrancato dal peccato, sarei rimasto a servire il peccato. Perché noi, vedete, servivamo il peccato. Eravamo servi del peccato, lo servivamo, gli rendevamo un servizio. Ma vi ricordate, fratelli, quando anche voi servivate il peccato? Ma vi ricordate il periodo in cui servivate il peccato? Come vi sentivate? Vi sentivate male, senza pace, senza gioia? Depressi? E perché questo? Perché il peccato che voi servivate vi ripagava con la morte. Perché il salario del peccato è la morte. Cioè, il peccato è un padrone che dà un salario a chi lo serve. E qual è questo salario? Questa paga è la morte. La morte, sì, proprio così, la morte. Ma infatti è terribile essere sotto il peccato. E chi c'è stato? Chi c'è stato? Lo sa quanto sia brutto essere signoreggiati dal peccato. Ecco perché, essendo stati affrancati dal peccato, mediante appunto il sangue prezioso di Gesù Cristo, noi veramente adesso gustiamo la libertà che è in Cristo Gesù, una libertà meravigliosa. Capite? Non abbiamo più il peccato che ci signoreggia, noi non siamo più infatti sotto il peccato, ma siamo sotto la grazia. E adesso camminiamo nella libertà dei figlioli di Dio, servendo la giustizia. Capite? Serviamo la giustizia. Mentre una volta servivamo il peccato, adesso serviamo la giustizia, perché siamo servi della giustizia. Quindi le nostre membra le mettiamo al servizio della giustizia per la nostra santificazione. Capite? Perché noi, quando eravamo servi del peccato, eravamo liberi riguardo alla giustizia. Ma adesso, invece, che siamo stati affrancati dal peccato, siamo schiavi della giustizia. Ma quanto è bello essere schiavi della giustizia. Peraltro siamo anche schiavi di Cristo. Quanto è bello essere schiavi di Gesù. Allora, a quel tempo, quando servivamo il peccato e quindi eravamo liberi riguardo alla giustizia, come dice l'Apostolo Paolo, fa questa domanda: qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Perché? Poiché la fine loro è la morte. Cioè, alla fine, che cosa ne abbiamo avuto? Che cosa ne abbiamo avuto, fratelli nel Signore? Dal servire il peccato abbiamo avuto la morte. Ecco che cosa abbiamo avuto. Abbiamo avuto la morte. E io lo ricordo quel periodo, ero giovane, sono passati tanti anni, però lo ricordo bene quel periodo al servizio del peccato. Ma come dice l'Apostolo Paolo, proseguendo ai Romani, capitolo 6, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi abbiamo un frutto, abbiamo anche per fine però la vita eterna. Allora, per frutto abbiamo la nostra santificazione. Siamo stati chiamati a santità, quindi a santificarci, e santificandoci noi portiamo frutto a Dio. Se la nostra santificazione, vedete, dice voi avete per frutto la vostra santificazione, quindi vuol dire che la nostra santificazione è il frutto che noi portiamo alla gloria di Dio. Ecco perché ci santifichiamo per portare frutto alla gloria di Dio. D'altronde dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione è importante, quindi è di fondamentale importanza avere per frutto la nostra santificazione, che dobbiamo compiere nel timore di Dio. Ma abbiamo anche per fine la vita eterna. La vita eterna che dimora in noi, che ci è stata donata da Dio, e che è la vita eterna, che è il figliolo, perché dice che Gesù è chiamato la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Pensate un po' come viene definito Gesù. Dice Giovanni, infatti, all'inizio della sua prima epistola: vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Infatti, il figliolo di Dio è la vita eterna. E noi abbiamo appunto la vita eterna, che è il dono di Dio, non è qualcosa che appunto ci siamo guadagnati o che ci stiamo guadagnando, anche perché lo possediamo questo dono, è il dono di Dio lo possediamo, la vita eterna dimora in noi, quindi noi non ci stiamo guadagnando la vita eterna. E quindi il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Notate appunto come le cose sono messe in contrapposizione. Da un lato il salario del peccato, la paga del peccato, che è la morte. Dall'altro però il dono di Dio, che è la vita eterna. Quindi la vita eterna non è il salario che Dio dona a coloro che se lo sono guadagnati con le loro opere buone, no, è il dono di Dio, è il dono di Dio, non è il salario, non è la paga della nostra condotta, come dicono i bugiardi, gli scellerati, quelli appunto che pregano in ginocchio pensando che appunto pregando ogni volta che pregano in ginocchio si appropriano di un pezzo di vita eterna, pensate un po' voi. La follia, la demenza, la pazzia che livelli può raggiungere, ma guardate che quando le tenebre accecano qualcuno è terribile, quella persona non capisce più niente, gli può passare pure davanti un elefante, tu gli puoi dire guarda che c'è un elefante, non lo vede, non lo vede, anzi è capace a dirti oh ma cosa stai dicendo, quella è una formica, no no perché è bugiardo, è così Se tu gli dici, guarda che lì c'è un elefante, no, ti dici, io non vedo l'elefante, vedo la formica. Ma come? Ma come? Ma i bugiardi sono così. Quindi, d'altronde, sono coloro che torcono le scritture a loro perdizione, coloro che mutano la verità di Dio in menzogna. Fratelli nel Signore, i bugiardi sono una razza di persone molto diffusa. E guardate che quando ci si imbatte nei bugiardi, veramente si comprendono tante cose che prima non si capivano. Soprattutto si capisce perché Dio odia la lingua bugiarda. E poi naturalmente si capisce perché i bugiardi appunto poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi, fratelli nel Signore, questa mia predicazione ha come obiettivo di esortarvi a innanzitutto stare saldi nella fede, perché dice chiunque crede che Gesù il Cristo è nato da Dio, quindi è bene che voi continuate a credere, a perseverare nella fede e a credere che Gesù è il Cristo, credetelo fino alla fine. Poi naturalmente questa mia predicazione ha come obiettivo quello di incoraggiarvi, spronarvi a servire la giustizia. Quindi voglio esortarvi a prestare le vostre membra a servizio della giustizia, per avere per frutto la vostra santificazione e così piacere al Signore. Naturalmente nello stesso tempo vi esorto ad aborrire il peccato, aborrire il male, perché è proprio quello che il diavolo vuole che voi facciate, cioè che voi vi rimettiate a servire il peccato, Perché il diavolo sa che il salario del peccato è la morte, lo sa. Ecco perché va attorno, quando la scrittura dice va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, ma voi che cosa pensate voglia dire cercando chi possa divorare? Il diavolo è il tentatore, che cosa tenta a fare? Tenta a commettere il peccato, perché il salario del peccato è la morte. Chi è che tenta i credenti affinché pecchino? È il diavolo. Chi vi tenta affinché voi amiate e praticate la menzogna? Chi vi tenta affinché diciate bugie? Chi vi tenta? chi è il diavolo. Quindi state attenti. State attenti, come dice la scrittura, resistetegli stando fermi nella fede, perché è di fondamentale importanza rimanere fermi nella fede quando si affronta il diavolo. D'altronde io voglio ricordarvi che la nostra fede ha vinto il mondo, come dice Giovanni, chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? O come quando dice, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Allora il mondo giace tutto quanto nel maligno. Noi, perseverando nella fede nel figliolo di Dio, continueremo ad essere vittoriosi sul mondo e quindi sul diavolo. Quindi perseverate nella fede e rimanete saldi nella fede, resistete al diavolo stando fermi nella fede. E sapete cosa dice la scrittura? Fuggirà da voi. Abbiamo questa promessa, quindi è molto importante affrontare il combattimento con lo scudo della fede, che fa parte dell'armatura di Dio, della quale appunto noi ci dobbiamo rivestire. Infatti dice di prendere, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Ecco perché dice Pietro, resistetegli stando fermi nella fede, perché con lo scudo della fede veramente si spengono tutti i dardi infuocati del maligno. Pensate quanto ci odia il diavolo, ci lancia contro dei dardi infuocati. Dei dardi infuocati. Guardate che il diavolo ci odia, eh? Il Dio ci ama, infatti noi siamo chiamati dal Signore, ma il diavolo ci odia, e ricordatevelo sempre questo, il tentatore cerca chi può divorare, cerca chi può far cadere in tentazione, e non è buono il diavolo, anche se oggi molti lo presentano come un essere buono. Assolutamente, è chiamato il maligno, ricordatelo, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, quindi resistetegli stando fermi nella fede, e il Signore appunto farà sì che egli fugga, che quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Rimanete calmi e fiduciosi nel Signore e non vi lasciate spaventare. Non vi lasciate spaventare dagli avversari, perché esiste l'avversario, ma esistono anche gli avversari. Gli avversari sono i figli, naturalmente, dell'avversario. Quindi, fratelli nel Signore, fatevi animo, il Signore è con noi che appunto siamo Suoi figlioli. Benediciamolo, ringraziamolo, veramente magnifichiamolo, perché Dio è con noi, Dio è sopra di noi, Dio è in mezzo a noi, Egli cammina in mezzo a noi, che siamo il Suo popolo, siamo i Suoi figlioli, per la Sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.